primissime incisioni per la formazione di Roger Daltrey degli U erano loro con le note di Substitute. Siamo quindi nella nostra seconda ora, ricordo sino alle 12 insieme, poi Claudia con voi. Dopo il compleanno di Peter Gabriel, dopo aver ascoltato gli U, abbiamo una coppia, Simon & Garfunkel, questa è Mrs. Robinson. Famose note di Mrs. Robinson, colonna sonora anche del film Il Laureato con Simon Garfunkel, ad un altro compleanno di questa giornata. 13 maggio del 1950, quindi nasce nello stesso anno di Peter Gabriel, nasce Danny Kirwan, componente dei Fleetwood Mac. Questa è la loro Don't Stop. You'll see me.

Cola dei Guns N' Roses, Mr. Brownstone. Andiamo all'ultimo compleanno di questa giornata. Paul Thompson con i Roxy Music nasce nel 13 di maggio del 1951. On the tables, Quackkeeper's Place or Mabel's. Slow and gentle, sentimental, all styles served here. Louis says he'd prefer laissez-faire the strand. Tired of the tangle,